Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere, ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo, non siete neanche fottuti esseri umani, sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda. È bellissima l'espressione, non so se ti ricordi Parenzo, pezzi informi di materia organica detta merda, bellissimo, straordinario. Pezzi informi di materia organica. Pezzi, che è un modo anche nobile, no? Un modo anche nobile per descrivere le feci dell'uomo. Che ti è successo? Senti, Ruben, sono in un casino, dobbiamo andarcene. Ma non possiamo restare ancora un po'. Ti dico di no, è una cosa seria. Ho scagareggiato. Non so che cosa vuoi dire. Ho scorreggiato ed è uscita un po' di merda. Ho scagareggiato. Ora andiamo. Sei la persona più disgustosa che abbia mai conosciuto. Questo è un film con Ben Stiller e sembra una conversazione tra me e te, David. Sei la persona più disgustosa che abbia mai conosciuto. Sì, ma è curiosa la parola che viene utilizzata nella traduzione in italiano, che è scacareggiato. Non so se sia un errore oppure no, oppure è la traduzione da un inglese ancorché imperfetto, quello utilizzato dal partner di Ben Stiller in quel film. Voi direte che cosa c'entra questa roba qui con tutto quello che succede, diciamo, in Italia, nel mondo, Parenzo a Siena. So che ti ha fatto gli auguri in diretta anche il signor Ruffini, il signor Paolo. Sì, bravo, sì, esatto, perché... Ma sentiamo. Un saluto ovviamente a Parenzo che ha incrementato la meravigliosa famiglia. Auguri a Gabriele, Luca, auguri di buona vita. Beh, bisogna dire una cosa, ragazzi, poi esauriremo prima o poi quell'argomento del figlio di Parenzo, perché è evidente che a un certo punto poi questo figlio prenderà il volo da solo e l'argomento si esaurirà, non c'è dubbio, non è che possiamo seguire, sarebbe bello seguire giorno per giorno tutto quello che fa e come viene nutrito, se ci sono problemi in famiglia, se la cosa provoca scompensi, però... ragazzi, non si può forzare una persona a fare quello che non vuole fare, però vi devo dire una cosa, che se fosse per Parenzo la questione della natalità, che è stata evocata dalla signora Boldrini durante gli ultimi giorni, secondo la Boldrini, poi ve lo leggerò bene perché vi incazzerete come delle bestie, Parenzo impedisce l'arrivo di altri immigrati. Questo è il punto. Cioè, la famiglia. Non ci avevo mai pensato a questo. No, alza la voce perché non si sente una mazza. Perché dici così? Perché? Beh, sì, perché Parenzo impedisce, avendo una natalità nella sua famiglia molto alta. Ma no, ma sono solo a tre figli, non mi pare così. Posso averne, guarda, se vuoi, posso farne anche un quarto. Ma non lo so, dire... quello dipende da te. Però non è normale oggi, cioè non è normale, non è usuale, non normale. Ma non è normale. No, ma normale. Da uno che ha messo in vendita... Adesso, scusa. No, ma non volevo dire in senso negativo. No, non parlare di normalità. Tu che hai messo in vendita la parte dove non batte il sole, parli a me di normalità che ho semplicemente messo al mondo un figlio di uno degli atti più naturali del mondo? No. Da quando nasce l'uomo? Ma dai! No, ma io non dicevo naturale, cioè non volevo criticare. Non è naturale avere tre figli. No, non ho detto questo, non ho detto che non è normale avere tre figli, ho detto semplicemente che è una cosa che non è, oggi non si fanno tre figli, uno c'ha paura a fare tre figli, invece Parenzo contribuisce in qualche modo alla crescita del PIL italiano e impedisce che l'Italia sia invasa dagli immigrati. No, ma non vedo che questo ci devi pensare un po', non so che rapporto c'è. No, il rapporto c'è, guarda, te lo leggo subito perché mi hai rotto le balle, anzi sentiamo ancora Ruffini, va che trovo questa roba. Io sono presidente giovane, comunque piacente, cioè voglio dire, ho 41 anni, cioè, se pensi che Parenzo se ne ha 40 sembra mio nonno, vero Lilli? Come sta il vagabondo? T'ha dato del vecchio quarantenne. La Boldrini ha detto, dunque Parenzo è l'anti-Boldrini, posso tranquillamente titolare così. Allora, l'Italia è un paese a crescita zero, dice la Boldrini, che è il presidente della Camera, che noi, come dire, umilmente rispettiamo. Anzi, non rispettiamo per niente, perché non rispettiamo nessuno. Terza carica dello Stato. No, ma non rispettiamo nessuno, però... La veneriamo. Formalmente lo diciamo così, cioè lo diciamo formalmente. L'Italia è un paese a crescita zero. Per avere 66 milioni di abitanti nel 2055, però non si capisce perché dovremmo avere 66 milioni di abitanti nel 2055. Non è che ce l'ha ordinato il dottore, eh? Dovremo accogliere un congruo numero di migranti ogni anno. Poi ha fatto anche una cifra, ogni anno credo 400.000, 500.000, tra i 400 e i 600.000, una roba incredibile. Innanzitutto, uno, perché dobbiamo diventare una popolazione di 66 milioni di abitanti? Per quale motivo? Perché per forza attraverso gli immigrati? Per pagare le pensioni a quelle nonnine. Questa di Radio Padania. È una truffa questa cosa qua. No, nessuna truffa, l'ha detto anche il Ministero dell'Economia qualche Ma giorno che fa con uno studio straordinario. Non è che siamo obbligati per forza a prendere i migranti. Per pagare le pensioni a quelle odiose nonnine che peraltro... Sì, dobbiamo importare per forza i migranti, ma non dire stupidaggini. Chiamano a Radio Padania cucinando polenta taragna . E noi abbiamo bisogno di migranti che già oggi pagano le pensioni a quelle nonnine razziste. Ma figuriamoci. È così. Allora, però è esploso nel weekend il caso Bertolaso Meloni. Non è esploso così per caso. Non è esploso durante la trasmissione fuori onda. Allora, cosa è successo? Il signor Bertolaso ha detto una frase. Ora io non attacco Bertolaso su questo, tutti lo stanno attaccando, le donne, tutti i comitati se non ora, quando, eccetera, eccetera. Perché ha detto una cosa che già la Meloni aveva detto 50 volte. Possiamo definire sgradevoli le parole di Bertolaso, non è un uomo che lo deve dire, non è lui che deve decidere sulla maternità della Meloni, se valga la pena o no che faccia il sindaco o che si impegni in campagna elettorale, tutto quello che volete. Ma Bertolaso ha detto le stesse cose della Meloni. Dunque, se prima la Meloni diceva io non mi candido perché sono incinta, adesso ci ripensa, significa che quella cosa che diceva prima era una scusa. La cosa che diceva prima sulla maternità era una scusa. Comunque, sentiamo Bertolaso a fuori onda. La Meloni potrebbe fare il vice sindaco? No, la Meloni deve fare la mamma. Mi pare che sia la cosa più bella e che le possa capitare ad una donna nella vita. È definitivo questo. La Meloni deve fare la mamma. Però, no, deve gestire questa pagina della sua vita, che è una delle pagine per una donna, credo che sia la più bella in assoluto. Ancora. Non vedo perché qualcuno deve costringerla a fare una campagna elettorale che comunque sarà feroce. E poi nel momento in cui deve incominciare ad allattare, incominciare anche a occuparsi delle buche, della sporcizia, del traffico, dei topi, della microcriminalità e di tutto il resto. Allora, per fortuna io non voglio avere sempre ragione, anzi spesso magari ho torto. Però io è dall'inizio di questa vicenda, quando la Meloni più volte, anzi sentiamola, va, la Meloni che diceva non mi candido al settimo mese per mettere pace nell'asilo della destra. Così ha detto. Dunque non è Bertolaso che deve spiegare un'uscita infelice, è la Meloni che se si candida deve spiegare perché ci ha ripensato e che cosa diceva e quello che diceva prima evidentemente era una mezza scusa. E francamente non sarebbe neanche così, diciamo, entusiasmante ritrovarsi a candidarsi sindaco di Roma al settimo mese di gravidanza, in buona sostanza, perché per mettere, diciamo così, pace nell'asilo del centrodestra. Io ricordo tra l'altro che la Meloni, rispondendo a un militante per strada qualche giorno fa, che ha detto ma scusa, perché non ti candidi tu? Sono incinta. Quello gli ha detto ma prova tu a essere incinta, ha detto a quello. Cioè, ma ragazzi, ma è tutta una buffonata, è tutta una buffonata, non c'entra niente essere incinta, eccetera. Qui ci sono manovre politiche, nessuno si vuole candidare tranne forse il povero Bertolaso. il quale ha fatto un'uscita certo infelice, per carità, perché non è che puoi dire, come dire, deve fare la mamma, lascialo decidere a lei. Poteva tranquillamente dire, è stata la Meloni stessa a dire che vuole fare la mamma, e risolveva la questione. Cruciani, sei il conduttore radiofonico più sporco del mondo. Traffico. La Zanzara. A proposito di donne candidate a sindaco, l'altra follia di queste ore è la decisione della candidata del Movimento 5 Stelle Bedori di non candidarsi, perché dice io soffro e non gliela faccio. Amica mia, ma di che stiamo parlando? Mi hanno accusato di essere grassa, di essere brutta, ma chi ti ha accusato? Quattro coglioni sulla rete? Oppure di la verità, anche al tuo interno avevano dei dubbi, Casaleggio aveva dei dubbi, non hai il consenso, non hai detto una parola in un mese e mezzo di candidatura, non è che te la puoi prendere con la stampa, ma quale stampa? In un mese e mezzo non hai detto una parola su Milano, questa era candidata a Milano, con 75 voti dalla rete, 75 voti? Cioè, ma di che parlano questi qua? Di cosa parlano? Dovrebbero rivoluzionare Milano, dovrebbero rivoluzionare l'Italia, non riescono a candidare una a Milano. Ne votano una attraverso internet e cosa succede? Questa accusa la stampa o qualcun altro di averli dato dalla grassona e della brutta. Roba incredibile, guarda. Incredibile. Allora, però, un altro dei protagonisti di queste ore, Parenzo, si chiama Adinolfi. Adinolfi, il quale se la prende con Kung Fu Panda. È incredibile, ma riesce il genio di Adinolfi a trovare sempre qualcosa, qualche argomento per legarlo al dominio della lobby omosessuale, quella che lui chiama la lobby gender. E cosa ha fatto il Panda? No, ma tu non sei una mazza, amico mio, ti sei occupato di famiglia, di altre cose, sono qui io a reggere questo cazzo di baracca. Kung Fu Panda e Adinolfi, senti. Andrete a vedere Kung Fu Panda 3, si sveleranno finalmente le origini del panda protagonista, che si chiama Po. E indovinate quali sono le origini del panda protagonista? Bene, lo schema che vi verrà proposto durante questo film è che anche il panda Po è figlio, tra virgolette, evidentemente, di due papà. Ha due genitori, entrambi maschi. Hai capito? Il panda figlio di due panda maschi, il che naturalmente è anche vero. Però, amico mio, tu non la puoi interpretare come il grande complotto per far passare nella mente dei bambini che è possibile avere due padri maschi. Anche fosse benissimo, perché le favole da sempre invece ti spiegano la realtà meglio. No, anche fosse, dico, anche se... No, ma senti il lavaggio del cervello di cui parla lui, senti. Bene, queste sono le ferite che vengono inferte ai nostri bambini, anche piccolissimi. Questo è il lavaggio del cervello che poi vorrebbero proporvi anche nelle scuole con i famosi corsi gender. Ma non esistono i corsi gender, esistono in qualche scuola, eccetera, a mio parere vanno cancellati i corsi gender, va cancellato tutto quello che attiene alla sessualità nelle scuole prima dei 14 anni, va cancellato tutto. Ma non c'entra niente, non c'entra. Che cosa c'entra Kung Fu Panda con la lobby gay? Non vogliono imporre niente, è un cartone animato, nessuno vuole entrare nel cervello. Però devo dire che è un genio, perché riesce a stare sempre sull'attualità, a essere sempre visibile in tutti i media con queste sue trovate. Adesso anche Kung Fu Panda, che cos'è? 3, credo, no? Kung Fu Panda 3. Mia figlia vuole andare assolutamente a vederlo, è una cosa incredibile. Bellissimo. Io mi romperò i coglioni, mi addormenterò come faccio sempre al cinema. Se a mia figlia che ogni tanto, sai che fa? Sono al cinema con lei, mi addormento puntualmente ogni film, lo so, mi addormento, che devo fare? Avrò una malattia, non lo so. Lei sai cosa fa? Si incazza, si rivolge verso di me, si gira verso di me, mi guarda malissimo e mi sveglia, mi dice: papà, ma che fai, dormi? Mi guarda di un male che mi sento, mi sento il cuore che si agghiaccia. No, sì, scusa, sto dormendo, adesso seguo, poi mi controlla se ho seguito, mi fa le domande dopo. Ma giusto, ma condividi con lei i bambini sono bellissimi, ti servono per evadere un po' da questa realtà fatta soltanto di merda alla fine, letteralmente. Ma come di merda, che cazzo dici? Ma è una realtà fatta di merda. Hai messo in vendita il sedere, parli di questa roba che ti capita nelle mutande, apri il mondo tuo a realtà che vadano oltre tutta questa, queste feci che ti circondano. Eh no, c'è da ridere. Senti, però, però devo farti sentire quello, uno dei casi del incredibile, incredibile. Cioè, ci, no, non ci tocca occuparci, no, ma Fedez è picchiato dal vicino. Signor sì, vabbè, Fedez vabbè, è picchiato. Vecchia, notizia vecchia. Sì, due giorni fa, quello che è, sì, notizia vecchia. Nasta, chiusa, sì, però, finita. Adesso, ragazzi, ma ci possiamo occupare di Fedez che è picchiato dal vicino? Però un appunto, un legame... Però le ha date anche lui, mi risulta. Un legame con l'attualità c'è. Molti hanno, hanno trasformato questo signore, che si chiama, credo, Alessandro, in una specie di idolo assoluto. Perché ha picchiato Fedez. Cioè, tutti quelli che odiano Fedez considerano questo Alessandro una sorta di mito. E c'è la corsa a cercarlo, anche noi l'abbiamo cercato oggi, ma naturalmente il personaggio è sparito. C'è una cosa però in difesa di questo Alessandro. Io non picchierei mai nessuno, anche se sento rumori che non mi piacciono. Però io odio gli schiamazzi. Se c'è una cosa che dunque lo capisco, questo Alessandro, la sua reazione alle 6 di mattina a Fedez: hai rotto il cazzo, abbassa sta musica. Quello avrà detto di no, non avranno fatto niente, alla fine è andato là. Ma poteva chiamare i carabinieri o la polizia? Sì, anch'io avrei chiamato i carabinieri e la polizia invece di andare là. Polizia, carabinieri, anche quale distanza, tutte e tre. Sì, comunque io voglio capire da Fedez una cosa: o la cosa è grave, e d'accordo. Lui dice che non è grave, però è andato in ospedale. Delle due l'una, mi sembra, no? Senti, Fedez. Mi ha appena chiamato mia nonna per dirmi che al telegiornale, poco prima di dare una notizia sul Papa, avrebbero asserito che io sarei tra l'ospedale e l'obitorio senza mandibola, dopo una festa incredibile. Allora, io sono veramente lusingato delle attenzioni dei media italiani, ma ovviamente l'esagerazione fa sempre molta più notizia. Volevo rassicurare i fan, so benissimo, e a tutti i detrattori che gioivano di questa aggressione. Sarà per la prossima volta, ciao! La frase più bella è: voglio rassicurare i fan. Ma perché c'è qualcuno che si è preoccupato? Beh, Cristo, magari, sì. Si è preoccupato di Fedez che ha preso una pizza? C'è un fan di Fedez, si è preoccupato? E lui vuole rassicurare i fan? Si è preoccupato perché quello ha preso una pizza da un vicino per la musica alta? Cioè, esiste uno al mondo che si è preoccupato per la sorte, per la salute di Fedez perché ha preso una pizza da un vicino? Esiste al mondo uno! Uno! Presentatemelo, uno che si è preoccupato, vi prego, uno! Cioè, se io muoio sotto un... Io qualche fan ce l'ho, meno di Fedez sicuramente, ma se io vado sotto un tram, se c'è qualcuno che si preoccupa per me, io mi incazzo come una bestia! Stupisci! No, mi incazzo! Se qualcuno si preoccupa per me, si preoccupa per me, mi incazzo come una bestia, penso di aver sbagliato tutto, se... ve ne dovete fottere se finisco sotto un autobus, dovete sbattervene i coglioni, dovete fottervene. Eseguiremo no, appunto, lettera. Dovete fottervene, eseguiremo alla fottetevene, lettera, non vi preoccupate come fate con Fedez, non vi preoccupate, sbattetevene i coglioni. C'è qualcuno che gioirà, anche quelli che mi sono più vicini, quelli che condividono questa trasmissione, quelli che... Dovete fottervene, non mandate nessun messaggio, non mandate nulla, niente, vi prego, niente! Cruciani, ascoltandoti ho capito finalmente il concetto di utile idiota. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24 Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimento necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Cruciani, prendendo spunto dal figlio di Parenzo che ha due nomi, domani vado in comune e abbandono Paolo per diventare Mauro Donato. Caro Cruciani, bisognerebbe abolire l'ora di religione in tutte le scuole italiane e istituire un'ora di zanzara. Da quando ascolto la zanzara, la mia vita è cambiata in modo radicale. Non mi lavo, ho la mutanda con la sgommata sempre, vivo dentro una roulotte in un campo nomadi, vado nelle aree di servizio la notte in autostrada a caccia di camionisti e soprattutto sono diventato gay. Voglio sposarmi con Cruciani, adottare Parenzo ed Efebal e fare una mucchiata. La zanzara. Che vita, David, che vita, che guarda vita. Che veramente è un insegnamento deleterio per le nuove generazioni. C'è una trasmissione diseducativa. Non ascoltatela, da adesso in poi non ascoltatela più. Questo è il mio appello che faccio alla nazione. E invece anche da Rio de Janeiro. Senti un po'. Cruciani, sono in spiaggia a Rio de Janeiro che ascolto il podcast della Zanzara e stasera, in onore di Parenzo, cercherò un trans circonciso. Siamo al top. Mamma mia che schifezza, ragazzi. Ma si può fare audience dicendo che la Madonna è stata fecondata con l'eterologa, che Padre Pio era un venditore di gadget e souvenir, un marocchino qualunque, mettendo di continuo l'Ave Maria? Ma che cazzo, Cruciani, ma stai impazzendo, porco Giuda, tu? Siamo qui, siamo qui, 800 24 00 24, numero per chiamarci in diretta, messaggi WhatsApp, audio 393 71 71 701. Antonio da Napoli, vai Antoine, vai Antoine. Pronto? Antonio, dimmi, vai. Mi senti? Ciao, volevo dirti, il tuo amico Salvini non ha ancora chiamato? Fra poco, fra poco. Capace... C'è tempo, c'è non tempo. Io non, so, che io... Deve... io non sono sì, amico sì. di nessuno, amico mio. Io sono amico tuo al massimo, di Salvini no. Non tanto, visto che sono napoletano non dovessi essere tanto. Perché? Non ho capito, non faccio differenza napoletani. Non ti manca le critiche, lei è napoletano. Lei è un amico del signor Auriemma, forse, no? Abbastanza amico, abbastanza amico, anche se non tifo per il Napoli, ma tu non credo che tu ti interessi di calcio, va bene? Vabbè, Antonio, che vuoi, non ho capito. Interesse di quello statista. Dovete dire... Visto che alla fine siete giornalisti, sì. Perché non dite al vostro amico Salvini che deve andare a cucciare a Berlusconi? Berlusconi ha deciso, il candidato a Roma è Bertolaso. Ma non mi sembra che le cose... crolla la giunta in Lombardia e sì. la giunta in Liguria. Ma che crolla la giunta in Lombardia? Ma quando mai? Guarda, figuriamoci se crolla crolla la giunta in Lombardia, dove hanno vinto e non so quando rivinceranno, sicuramente in Liguria sarà complicato. E allora non crolla niente, amico mio. Ed è proprio questo che non dice al tuo amico Salvini. Visto che lo elogi tanto, alla fine sarà succube di Berlusconi, che non conta più un cazzo, conta solamente per la Lega Nord. Poi volevo aggiungere una cosa a Mister Banalità, visto che mi ha dato dell'audio. Chi è Mister Banalità? L'altro giorno lo sentivo parlare della Reggia di Caserta, che il sindacalista aveva ragione, che qualcuno doveva chiudere il cancello quando il direttore andava via. Sì. Ma hai mai sentito parlare di guardie giurate, il tuo amico? Ma non lo so. Ma hai sentito guardare di guardie giurate che stanno lì a giocare? Lo chiudono loro il cancello. Ma il fatto che lei non abbia capito nulla non mi stupisce. Il fatto che lei proprio non capisca nulla non mi stupisce. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto semplicemente che forse tra un po' scopriremo che quel sindacalista in realtà non era un fancazzista come si vuol far passare, fancazzisti ce ne sono, ma forse non era lui, che ha posto una questione organizzativa e non perché non voleva che quello lavorasse. Bene. Forse scopriremo. Bene, ma quale questione organizzativa? Ma la questione organizzativa che hai posto tu, Parenzo, era quella di dire che c'era un problema, che qualcuno... Vabbè, Antonio, allora, dopo questa cosa... per chiudere il cancello. Vabbè, allora... E allora Parenzo non deve parlare di quello che non conosce. Va bene, ciao. Roberto dalla provincia di Roma. Vai, Roberto. Roberto? Ci siamo? Dimmi. Eccoci, sì, sono Roberto. Allora, scusa, prima questo domanda lo sappiamo. Perché da tempo... Ecco, da tempo me lo stavo chiedendo, ma... Tu sei di Roma, no? Sì. Ma di quale zona di Roma, per curiosità? Ma qual è il problema? Non ho capito. Cioè... No, io, ho abitato in un sacco di posti a Roma, per cui non sono di un quartiere in particolare, Roberto. Vabbè, comunque... Non sono di un quartiere in particolare, te lo dico, non sono di un quartiere in particolare. Non me lo dite dove sono. Sono nato nel quartiere Aurelio, ho vissuto al centro storico, ho una casa al centro storico, ho vissuto anche a Monteverde, ho vissuto in un altro posto. Una casa al centro storico! Sì, anche grande, anche grande. Assolutamente, addirittura ti posso dire anche una cosa, caro Parenzo. Nella casa che è di proprietà di mia madre al centro storico, il mio Augusto nonno... faceva un teatro d'arte che si chiama Teatro d'Arte Rosati negli anni 30, in cui veniva il re e anche il signor Mussolini. Lo so. Ti giuro, sono venuti qualche volta a casa mia. Ecco, quella casa, fammi capire, è affittata, perché altrimenti la facciamo sequestrare dallo Stato e ci mettiamo un po' di migranti. No, quella casa è nella disponibilità di mia madre, è una casa molto grande, molto preziosa. Allora, in base al nuovo regolamento ministeriale firmato Parenzo, ci sarà un nuovo decreto che le case sfitte, cioè non è affittata. Vabbè, Roberto, che cosa vuoi da noi stasera, Roberto? No, niente, ma diciamo che a parte voler sapere le mie case, le mie proprietà a Roma. Ti spiego per quale motivo te lo chiedo, perché il modo di parlare è da pariolino, da come la vedo io. Ma non c'ho nessun modo di parlare, io odio i parioli, cioè se c'è un posto che odio sono i parioli. Questo mi fa piacere. Ok, chiuso il discorso. Ma non per niente, proprio non mi piace, un posto che non mi piace. Ho capito, Cruciano, ma hai detto da dove vieni, cioè che zona hai frequentato, mi sta bene, chiuso il discorso. Vabbè, poi quell'altro, l'amico tuo, quello che Parenzo, come si chiama? Parenzo, no? Volevo dire. Sì, più o meno, sì. Volevo chiedere una cosa. È abbastanza conosciuto col nome Parenzo, se tu non lo conosci poi è un problema tuo. No, quello che fa Renzo. Allora, io volevo dire a Parenzo che noi abbiamo capito che fa lo scemo a pagamento, perché lui fa lo scemo a pagamento, questa è la realtà. Io dico semplicemente aspetta, non rispondere subito, fai parlare Roberto. Io sono convinto che se facesse un accordo per pigliare un cazzotto a sera, ma non di quelli virtuali che prende tutte le sere, quelli veri, pur di stare in trasmissione, lui l'accetterebbe, perché non credo proprio, guarda. Io sono convinto, la mia convinzione. Vabbè, allora qual è la tua conclusione di questa dissertazione, di questa lunga dissertazione? Niente, dal momento che credo che lui si senta anche bravo, ma perché non mi fai questa cortesia una volta, per una settimana fa fare la trasmissione soltanto a lui? Vabbè, non rompere le scatole, dai, con questa strozzata, dai, Luca da Roma, dai, che puttanate, dai, Luca, vai, Luca, dimmi. Ciao, senti, volevo dirti una cosa, io mi occupo di una delle cose più, che per te giustamente sono più noiose dell'umanità, cioè che studio storia economica. No, certo. Per carità, perché? Quanti anni hai, Luca? Quanti anni hai? 27, un dottorato. 26. Questo già è buono, 27 anni che ascolti la Zanzara, mentre le altre trasmissioni c'erano tutti vecchi, malato, vecchi decrepiti con la flebo. Ti dico solo che la sto ascoltando mentre sotto mia nonna sta facendo la benedizione col prete, io mi sto grattando i coglioni e mi rifiuto di scendere. Però è fondamentale. Ma la nonnina? Luca ci sta dicendo che la nonna, non so dove, in che luogo. Sta facendo sotto la benedizione, mia madre si sta vergognando perché gli ho detto che sto al telefono con te. No, scusami Luca, però passami la nonna che fa la benedizione. La nonna non te la posso passare perché sta col prete. Appunto, ha maggior ragione. Giuseppe, questo mi arresta, Cioè, non ho rapporti con lui, ti giuro. Ma con chi? Col prete. Ma chi arresta il prete? Non è che c'hanno l'autorità per arrestarmi, mica siamo nello Stato Pontificio, amico mio. Cioè... Ma poi nonna non sa chi sei tu, cioè non meglio ancora, le... meglio ancora, passami il prete con la nonna. Ma diventa... Fatti cacciare da casa, fatti buttare fuori da casa. Sì, infatti, c'è il mio mastino che non fa entrare il prete, ti giuro. C'è pure Arcane c'hai a casa. Comunque, detto questo, vabbè, speriamo che non lo faccia entrare perché io... Ma non ho capito, dov'è tua nonna in questo momento? Mia nonna è fuori in giardino, alla porta, perché noi abbiamo una villa. Sì, pure. E praticamente c'è il prete che vorrebbe entrare, ma mia nonna non riesce a farla entrare perché il mio mastiff gli abbaia. È una scena meravigliosa. Innanzitutto, perché il prete viene a casa tua? Per la benedizione pasquale? Sì, esattamente. Ma bisognerebbe vietare queste cose qui. Ma guarda, io cioè, bisognerebbe vietare in maniera drastica che i preti si presentino a casa. Se un prete si presenta a casa mia e fa la benedizione pasquale, io dico, senta, caro signor prete, perché mi disturbi? A quest'ora può andare serenamente a fare in culo perché non puoi dire così. Te lo dico, ti giuro, se un prete suona a casa mia e mi dice voglio fare la benedizione pasquale, io dico lei mi ha disturbato, mi dica di che parrocchia è e la querelo per disturbo della quiete pubblica. Immediatamente io odio che i condomini mettano nelle bacheche, no, nei corridoi, negli atri dei palazzi i cartelli della benedizione pasquale. Io ho detto subito al mio portiere, ho detto, togli questa roba qua immediatamente. Qui ci sono buddisti, atei come me nel mio palazzo, atei, buddisti, solo per quattro che credono alla religione cattolica, uno deve subire un cartello in cui dice passa uno per la benedizione, ma chi se ne frega della benedizione? È veramente incredibile. Nonna, non l'hai fatto entrare, prete? Non è entrata, meno male. Passami tua nonna immediatamente, nonna, Luca. Nonna, ti passo la radio più importante d'Italia, pronto? Rispondi. No, la trasmissione più importante, che sottolinea questo aspetto. Pronto? Signora, che succede col prete? Buonasera, signora. Come si chiama? Non ho capito, ma scusi, sa che mio nipote... Sì, per carità. Come si chiama lei, signora? Io l'adoro già. Come si chiama lei? Io mi chiamo Fausta. Fausta, che succede col prete? Non ho capito, signora. No, niente, abbiamo un cane che... Beh, bravissimo sto cane. Che ha fatto? Che ha fatto questo? Gli impedisce di entrare al prete? Già. Ma il prete che è venuto a fare? L'ha chiamato lei, signora? No. Ma lei è d'accordo che venga a fare la benedizione pasquale? No, si voleva far benedire a casa. O chiamava, no? No, è venuto di sua cosa. È venuto di sua sponte. Ma la conosce lei sto prete o no? No. Potrebbe essere un ladro, che ne sa che è un prete? Vabbè, certo, con qualche anno si era tranquillo che... Ma io non ho capito, come si chiama sto prete? Signora, lei lo conosce? L'ha mai visto? Deve essere prete di questa... No, in questo momento li stanno sentendo milioni di... Oddio mio! No, ma signora Fausta, non si preoccupi. No, signora, stia tranquilla. È una persona anziana. No, ma non si preoccupi, signora, no, volevo capire il mastino. Ma lei è un'usanza quella... Signora, sono Parenzo, buonasera, io sono di un'altra parrocchia, però va benissimo. Volevo capire questo, signora Cana. Lei in genere spesso a ridosso della Pasqua fa benedire la casa dal prete? Sì, fa benedire la casa. Come funziona, signora, la benedizione della casa per Pasqua? Funziona che loro hanno mandato, una busta, sì, che venivano in giornata, e adesso è passato. Ecco, è come passato, però c'è il cane che giustamente gli ha impedito di entrare. Sì, santo sì. Cane stavolta, che è un mastino? Un mastino? Saluta, arrivederci. Fermi tutti. Cruciani, ma noi che ce ne frega che tu c'hai le mutande sporche, fai schifo proprio. La Zanzara. Allora, a proposito dell'omicidio Prato, dell'omicidio Varani, da parte di Prato e dell'altro, Foffo, Parenzo, c'è da dire una cosa. Il signor Foffo, ha detto dalla galera, se non sbaglio, ha detto che voleva uccidere il padre, in realtà. Ti rendi conto? Voleva uccidere il padre. Questi se ne inventano di tutti i colori ormai, cioè non sanno più che inventarsi. In realtà, perché siccome ce l'aveva col padre per una serie di motivi, voleva uccidere il padre. Il padre gli ha anche risposto con una specie di telecamera nascosta che non ho capito, la trasmissione Tagadà, gli ha risposto dicendo è un altro colpo per me, adesso manco mi ricordo come gli ha risposto. Insomma, ha risposto a questa cosa qui e poi ha chiesto ai giornalisti comunque a quelli che si è trovato davanti, ma non è che mi date il modo di incontrare la famiglia Varani. Però è arrivato un messaggio di Mauro da Mantova su questa cosa qua. Ti prego di Mauro da Mantova sulla vicenda. Mauro da Mantova si esprime, parla a voce più alta, se no non si capisce. Mauro da Mantova si esprime anche su drammatici fatti di cronaca. Senti quello che ha detto, è incredibile, senti. Cruciale, dimentichi una cosa, il signor Prato fa parte della comunità ebraica, caro il mio Cruciani, è tutto lì il nocciolo, caro il mio Cruciani, svegliati, tanto sono paraculati. Ma tu ti rendi conto o no? Ma è completamente, guarda che è da richiudere veramente. Cioè, è riuscito a collegare Prato, che non so nemmeno se Prato effettivamente è un nome ebraico, Prato? Ma assolutamente no, è un nome di una città, ma non è che tutti i nomi di città sono ma che cazzo, ma mi fai discutere anche di questa roba qui, di questo povero idiota, ma stai scherzando? Ma non lo so, lui dice... Ma nello che hai fatto stesso che tu anche me lo chieda solo, capito? Questo è... Franco da Salerno, vai, 800240024, anzi no, c'era Luca, vai, Luca. Pronto? Oh, sì, Luca, scusami, poi Franco, vai, Luca. Che altro momento di radio. Ma sei il numero uno assoluto, guarda, il collegamento con tua nonna è stato fantastico. Ma guarda, stupirti non è facile, quindi sono contento di averlo fatto. No, ma è molto bello perché tua nonna, che era un po' spaventata, poi ha detto che effettivamente ci ha fotografato la situazione con questo mastino che impedisce al prete di entrare, è un momento di alto godimento per me, capisci che l'entrata del prete dentro una casa per me è sempre... Guarda, io la penso come te, però adesso lasciami 10 secondi per dire una cosa seria di cui non gliene fotto un cazzo a nessuno, però proprio 10 secondi. Dai, dimmi. riguardo la Boldrini, io non sono mai d'accordo con lei, secondo me è una figura ridicola, però quella frase che ha detto in apertura riguardo il legame tra diciamo la bassa natalità in Italia e i migranti, purtroppo non è una stronzata, io studio quello. Uno dei problemi atavici dell'Italia che gli impedisce di crescere è proprio la scarsa natalità. Tu hai detto non sto dicendo che noi non dobbiamo fare più figli, sto dicendo che pensare che l'unica soluzione sia l'arrivo degli immigrati è una cosa ridicola. Basta Parenzo da questo punto di vista, il grande inseminator, cioè basterebbe guardami, io ho 27 anni, con una ragazza di 30 vivo a casa con mamma e nonna, nonostante sì, ma anche in Francia fanno un sacco di figli con altre politiche e, per carità, hanno immigrati anche loro, ma non è che puntano tutto sugli immigrati, hanno dai 5 milioni di immigrati, ragazzi, ho capito, ma non è con gli immigrati che, no, basta dire stupidaggini. Gli immigrati, fino a prova contraria, nella stanca e vecchia Europa pagano le pensioni ai vecchi. Ma non è vero. Solo per far ritirare la pensione a quelle vecchie di Radio Padania, questa te la dico, guarda, perché è così, quelle vecchie di Radio Padania che chiamano ogni giorno da Baringli, come si chiama quel Cassamortaro, chiamano dal Cassamortaro di Radio Padania per protestare contro i migranti, lo fanno, gli va ritirata la pensione immediatamente. Ma che c'entra? Ma quelli hanno pagato i contributi. Adesso vivi con i soldi padani. Basta, l'immigrato, il kebabaro non ti paga più la pensione, vecchia ingrata che chiami a Radio Padania. Fine. Va bene, Franco, basta. Vai, Franco. No, non va bene. Ciao Cusciani, buonasera. Sì, se uno sentisse meglio quello che ha da dire Parenzo, forse sarebbe cosa gradita a tutti, ma purtroppo è collegato dall'oltretomba. Franco da Salerno, vai. Sì, si è sentito. Buonasera, insomma, Giuseppe. Si è sentito come negli anni 50, anzi forse negli anni 50 si sentiva meglio. Franco, vai. Buonasera. Dimmi. Volevo intervenire su due argomenti. No, ma due, non è che decidi tu, due. No, vai. Ma due secondi, ci mettiamo due secondi un'altra parte. Allora, per quanto riguarda Giorgia Meloni a Roma, io volevo dire questo. Sì, sì. Questi signori, questi politicanti, politichese, come li vogliamo chiamare, allora? Senza Berlusconi, questi qua erano tutti morti. Ma chi è? A chi ti stai riferendo? Alla Meloni, a Salvini? Alla Meloni. E allora? E anche a Salvini. Quindi per me questa gente che oggi si mettono di traverso di fronte a un partito, io non sono di destra, non sono di sinistra. Ma non è che si mettono di traverso, ognuno fa il suo gioco, amico mio, dai. D'accordo con te, però loro si devono mettere in testa che la gratitudine è gratitudine. Perché che c'entra la gratitudine? Non c'entra niente la gratitudine, dai, su. Ma questi qua senza Berlusconi non andavano da nessuna parte, non andavano, perché sono gentarella. Sì, ma a chi ti riferisci, gentarella? Sempre alla Meloni, a Salvini e tutto il resto, che si mettono contro una persona che io lo stimo come imprenditore, come uomo. Che si mettono contro? Vogliono fare una scelta diversa. Anzi, la Meloni in realtà fino adesso ha resistito su Bertolaso. Adesso non so cosa succede. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Cruciani, ma quanto fa cacare il tofu? La Zanzara. Allora, come al solito, collegamento fortunoso da un aeroporto italiano, questa volta è l'aeroporto di Linate in Milano. Matteo Salvini, buonasera. Buonasera, l'uomo con la valigia, un saluto anche all'ascoltatore di sinistra, finalmente uno di sinistra che difende Berlusconi. Oh, dai. Beh, no, veramente non è questo miracolo. Perché ha detto che era di sinistra questo qua? Sì, ha detto che era di sinistra. Hai seguito più tu di me. Allora, io voglio capire una cosa. Fedele ascoltatore della Zanzara. Meno male. Io voglio capire una cosa, Matteo, ma che succede? Bertolaso, invece, te lo dico. Ma basta, ragazzi, ma non so se avete visto che noi siamo al dibattitino su Bertolaso. Sì. La Germania ha votato in maniera incredibile. Vabbè, ho capito. La Gran Bretagna. Tu sei contento? Sei contento? Beh, sono contento perché dicono quello che diciamo noi. Rivediamo l'Europa, rivediamo l'euro, fermiamo l'immigrazione di massa. Dunque, sarebbe meglio se al comando della Germania ci fosse il capo di uno di questi partiti di estrema destra rispetto alla Merkel. Estrema destra, cosa vuol dire? È stato raccontato da un professore universitario a commercianti, avvocati, imprenditori, liberi professionisti. Se uno dice che vuole limitare l'immigrazione, cos'è? Xenofobo, razzista, nazista? Cioè, meglio questi qua, di questi partiti che hanno vinto, della Merkel? Sarebbe una Germania più seria. Più seria e più utile al progetto d'Europa che abbiamo in testa anche noi. Vabbè, però in Italia hai ragione tu, se parla di Bertolaso, che devi fare? È così, va così la vita. È della mamma, ma roba da... Cioè, una che, allora, che, la mamma, che, la mamma. La mamma non può fare il sindaco, non può fare l'insegnante, non può fare il medico. Cioè, Bertolaso ha detto una cazzata? Ma sì, è fermo 50 anni fa. fortunatamente è pieno di mamme che lavorano e di donne che lavorano incinte e dopo il parto. D'accordo, però devo dirti una cosa, io sono d'accordo con te, io sono stato l'aveva il primo detto la Meloni, esatto, ragazzi, io sono stato il primo a dire che la Meloni poteva tranquillamente fare la campagna elettorale con il pancione e mi hanno detto di tutto, tu non ti rendi conto, eccetera eccetera, sono stato il primo a dirlo, il primo. E la Bertolaso, che ha sbagliato, ha detto la stessa cosa che ha detto la Meloni, però scusami, no, ma io non sono qua a fare la guerra delle intenzioni. No, la Meloni ha detto che non si voleva candidare per il figlio perché è incinta. Qual è il miglior candidato possibile per Roma? Qual è? Lo dico da elettore di Milano. Qual ma è? Non uno che mi dice che il problema dei campi rom che rubano lo risolvi togliendo i cassonetti dalle strade. Allora, per risolvere il problema dei lavavetri, togli i semafori. Mi sembra veramente una bizzarria. No, ma questa qua, infatti, l'abbiamo già detto nelle settimane passate. Poi Roma è una città terremotata, poi robe varie ed eventuali. Insomma, non mi sembra il miglior candidato per Roma. Detto dunque, questo, non sarà mai il candidato della Lega, lo possiamo dire? Ma no, non sa. Poi lui ha detto che della Lega non gliene frega niente, quindi e dunque, anche bene fratelli per tutti, non interessa lui, non interessa me. E dunque non sarà mai il candidato della Lega? Andiamo avanti, no. No, non sarà mai il candidato della Lega. Un attimo, che succede adesso? La Meloni si candida? Tu mi dirai, domandategliela a lei. Non farmi premere per nessuno, se si candida io sono contento e faccio una campagna. E se non si candida che fai? Se non si candida ti candida? Una cosa per volta, non farmi fare il periodo. Se il Milan avesse vinto le ultime tre partite sarebbe in zona Champions. Non le ha vinte, facciamo pena. Tu dici se non si candida vediamo che cosa fare. Ragazzi, qua ripeto, perché non ti candidi tu? Perché non ti candidi a Roma? E perché no? Ma guarda, mi sono arrivate diverse decine di mail in questo senso, ma sono troppo rispettoso per i romani per imporgli un sindaco milanese che vive, lavora e ama Milano. Guarda che sarebbe una cosa eccezionale dal punto di vista mediatico, eh? Sarebbe una grande cosa. Salvini potresti candidare qualcuno di Casa Pound, ad esempio. Mi interessa rilanciare Milano. Cioè, meglio uno di Casa Pound di Bertolaso, dici? No, no, ma non farmi mettere. Ma Bertolaso ha la sua dignità, ha fatto le sue cose. Secondo me non è il candidato migliore. Se non c'ha... il mondo non gravita né intorno a Salvini né intorno a Bertolaso. Ma questo sicuro. Io so che tu ti occupi del mondo, come dici, però adesso dai. No, ma in piccolo. Io domani sono a Bruxelles dove lì stanno votando. Ho capito, però lo sai come vanno le cose. Ecco, non vorrei che qualcuno in Forza Italia, fammi dire questo, sì, non Berlusconi, ma qualcuno che sta vicino a Berlusconi fosse nostalgico degli inciuci con Renzi e stesse lavorando a perdere per fare un favore a Renzi. E quindi se qualcuno in Forza Italia vuole andare con Verdini, vuole andare con Alfano, il vuole famoso andare con Renzi, patto del Nazareno che esiste ancora, che esiste ancora. Io non sono nato per inciuciare. Senti, ma non capito, perché non fai con la Meloni, tu faresti il capolista della Lega a Roma? Ma no, se faccio il capolista a Milano cosa faccio? Mi sdoppio e per che te frega? No. Le ho garantito impegno quartiere per quartiere. Ma lei che non ho capito che cosa sta pensando? Cioè, qual è il punto? Cioè, non ho capito bene. Che cosa paura di perdere, devo fare? Vabbè, dai, fa l'esegeta del pensiero altrui. Ma non lo so, ma perché prima ha detto che non si candidava, poi hanno organizzato queste robe qui. Come le definisci queste robe di sabato e domenica scorsa? Una buffonata? No, io a differenza di altri non insulto chi partecipa. Poi i numeri possono essere opinabili. Ma secondo te non è... persone vuol dire una persona al minuto. Però rispetto... Dunque non è... Dunque... Rispetto a chi partecipa e sceglie, no? Non entro nel merito però di queste polemiche. I numeri sono falsi. No. Beh, come no? Rispetto totalmente chi è andato. Ha scelto d'accordo, quello d'accordo, ma i numeri sono falsi? No, se lo dici tu. È strano... Hai detto che sarebbe un voto al minuto. No, significherebbe una persona al minuto. Se è così, giù il cappello. No, ma è così. Ma siccome ci sono anche senatori, ho letto, che dicono se fossero vere queste cifre sarebbe un voto ogni 20 secondi addirittura. Cioè, è evidente che sono numeri fantasiosi, o no? Non mi interessa la polemica sulle primarie, sui soldi del PD a Napoli e su quelli che hanno votato 22 volte. Ogni cittadino che partecipa è degno di farlo. Ma quello là, la polemica non è sui cittadini che partecipano, la polemica è su quelli che diffondono delle cifre che se magari secondo te sono finte. Se l'hanno detto avranno i loro motivi per averlo detto, punto. Vabbè, avranno i loro motivi. Le primarie, questa sorta di consultazione, o questi numeri sono reali oppure sono finti? Delle due l'una, non è che... I romani hanno scelto Bertolaso, rispetto la loro indicazione, che non è la mia, e vedremo al voto chi ha... Io temo che ci sia qualcuno in Forza Italia, non Berlusconi, che sta tifando Renzi, che sta giocando con una maglietta quando ha il cuore con l'altra squadra. E chi è che starebbe lavorando per questa cosa? Scegliete voi. Cioè, dentro Forza Italia c'è qualcuno... dirigenti nostalgici dell'inciuccio. E chi sarebbero questi qua? Degli accordi sulla Fornero, degli accordi sulla Costituzione, degli accordi sulla legge elettorale. Mica li ho fatti io quegli accordi lì, eh. Quindi, non capito, ma, però, vabbè, comunque, ma perché non comanda Berlusconi? Non comanda Berlusconi, secondo te? No, comanda Berlusconi, ma come c'è qualcuno che non fa l'interesse, nessuno nel centrodestra lì dentro. Detto questo, ripeto, purtroppo i problemi sono altri. Vabbè, ma quello è chiaro. Brunetta comunque sta... parla di mamme... domandiamoci perché le mamme difficilmente riescono a lavorare. Vabbè, ma questo... l'asilo nido non è gratis come in Francia, cosa che noi abbiamo documentato. Vabbè, che possa questo... fare anche in Italia. Senti, volevo chiederti una cosa a proposito di famiglie. Tu, per quelli che hanno ammazzato Varani a Roma, quella cosa terribile, che cosa faresti tu? Io per chi usa violenza sessuale sono per la castrazione chimica, qualunque sessualità questo riveste. Io sono contrario alla pena di morte culturalmente, personalmente, però certa gente non deve rivedere la luce del sole finché campa e non deve avere più in mezzo alle gambe qualcosa che possa offendere il prossimo. Vabbè, in questo caso però non è che in questo caso non è nessuna... sembra che non ci sia nessuna violenza sessuale in realtà. Beh, mi sembra che lì fosse una festa, una semi-orgia con droga, con alcol, sì, con violenze sessuali, con tutto, il contrario di tutto. Per cui questi qua, questo omicidio terribile a Roma non vale la pena di morte, no, come ha detto Rita Dalla Chiesa, no, e altri ancora. No, io sono culturalmente, sono così brutto, cattivo, razzista e fascista che sono culturalmente con Beccaria e quindi contro la pena di morte. Però castrazione chimica per questi signori? Assolutamente sì, tutta la vita. Adesso mi stanno guardando male, spengo subito. No, che spegni, aspetta, fermo, che dov'è? Deve decollare. Ma che dici di... aspetta, ma che dici del signor Riccardo Bossi condannato? Se è stato condannato ci sarà un motivo per cui è stato condannato. Ma ha usato indebitamente dei soldi non suoi, ma della Lega, ha fatto un torto in primis alla Lega. Ma sono ormai i Bossi sono totalmente... Non ho letto le carte processuali. Ormai i Bossi sono totalmente fuori dalla gestione della Lega? No, io da Umberto Bossi ho imparato tanto, se non tutto. Ma i soldi glieli dava lui al figlio però? Chi glieli dava se no? Vabbè, ma lì il problema sono i figli. I figli chiedevano i soldi, quello ha preso 150.000 euro dai soldi nostri e non è che i figli possono chiedere, ma possono anche non sapere da dove venivano quei soldi. Il problema non sono i padri, non sono i figli, sono i padri che danno i soldi in questo caso. Tu mi chiedi, ma guarda, fortunatamente con mio figlio me la cavo con 15 euro avendo 12 anni con le figurine dei calciatori. Vabbè, e ancora però non è cresciuto come sono cresciuti fuori io. Ho capito, ma non sono cresciuti come Riccardo Bossi e come Renzo Bossi. E non faranno sicuramente mai politica i miei figli, di questo sono certo. Ah, sei sicuro su questo? Non faranno mai politica? Glielo vieterò con ogni mia energia in corpo. Cioè non faranno come i Bossi, diciamo? No, non faranno politica. Non faranno politica. Come Renzo Bossi l'ha fatto. Di altri, cugini di altri, no, non faranno politica. Tu sai come slaccia la cintura di sicurezza? Sì, lascia la slacciata, che cazzo ti frega? Cioè, no, devo spegnere. Ma lascia la slacciata, una parola sulla Boldrini che ha detto che bisogna aumentare il numero di immigrati, 400.000 non so quanti. È matta da internare. Gli italiani non fanno figli, portiamo 400.000 schiavi stranieri ogni anno in Italia, da internare, da ricoverare, da curare. Da curare addirittura, come matti. Impeachment, sfiducia. Impeachment. Barcone per la Boldrini, pure in senso contrario ovviamente. Attento alla cintura, ciao. Lo sai che devo dirti la verità? Che è più in forma quando si allaccia la cintura, perché deve esprimere un concetto rapidamente, no, sì, David? Siccome ci deve liquidare, allora... E allora tende a dire le cose più feroci in pochi secondi, capito? Cioè la Boldrini da internare... Sì, se ci pensi è una cosa di una gravità inaudita avere dato la terza carica. Adesso ci romperanno il cazzo, non avete preso le distanze da Salvini e la Boldrini, e qui e di lì non bisogna toccare la Boldrini, la terza carica dello Stato. È la terza carica dello Stato. Beh ragazzi, devo dire la verità, a me non mi interessa, io non uso la parola da internare. Qualche volta l'ho anche usato, forse in senso naturalmente metaforico io l'ho usato, però per me quello che ha detto è una cazzata. Brutto, veramente brutto, violento anche. Vabbè, violento, sempre brutto, con sta violenza, brutto. La violenza. Poi rimandare con un barcone al contrario, scherzando sulla tragedia dei migranti. Scherzando sulla tragedia dei migranti. Fai meno lo spirito, che rischiano la vita per venire. Fabrizio da Milano non c'è. Giovanni vengono da Brescia. Giovanni qua per stare in un paese in cui c'è Mauro da Mantova. Pensa a te che gente è questa. Giovanni da Brescia, dai. Giovanni, dai. Pronto? Dimmi, Giovanni. Allora ti spacco le chiappe in due. Ragazzi, però alzatemi questi volumi, vi prego, io non posso condurre una trasmissione che è anche molto ascoltata. Scusa. Con i volumi del cazzo, ecco. Buonasera. E stavolta la colpa è tua, capito Giovanni? Stavolta la colpa è tua. Chiedo venia. No, chiedi venia una merita minchia, perché adesso parlo più e quanto di te in questi termini. No, volgari. Io mi sono trattenuto sono stufo adesso. Marcio, posso? Sei stufo Marcio di che cosa? Dimmi. Di sentire dire teste e corna della Chiesa Cattolica. Ma in non quanto lo so, io sono. Ma se anche tu. Mi aggancio al signore di prima, che era scandalizzato l'intelligentona ad avere sulla soglia di casa il prete che voleva venire. No, lei no, lui. Lui era lui. Il signore ha dato del Luca, al signore. Luca, geniale, sì, un genio. Luca, benissimo, io... Non voleva il prete sulla soglia di casa, ma sarà consentito non avere il prete sulla soglia di casa oppure no? Fermo là. Tu ti devi fare un bagno nell'acqua santa per lavare sia lo sporco fisico che quello della tua anima. La Zanzara. Ciao Crociani, senti, io mi lavo col sapone sole, quello da bucato, non ti dico, fanno impazzire le donne, quel profumo di bucato, di pulito, è il migliore al mondo, le donne impazziscono, dillo a tutti che vedrai che ha un effetto devastante con le donne, ciao, ci vediamo. Allora ragazzi, tantissimi messaggi al 393-7171-701 sul tema doccia, sul tema sgommata, caro Parenzo, che tu voglia o non voglia, ci sono state centinaia di messaggi su questo tema, io direi di partire con una bellissima carrellata. Crociani, le mutande di mio marito sono quasi da ufficio igiene. Ma smettila, una sgommatina ogni tanto, diglielo Crociani, una sgommatina ogni tanto, su. Crociani, io la sgommata ce l'ho e quando mi tolgo le mutande la annuso anche. Dai, va là, io non voglio crederci che Parenzo non ha mai avuto lo stronzo che bacia la mutanda. Dai, dai, che le frenate le hai fatte pure te, va là, va là. Io finché non vedo la sgommata, le mutande non me le cambio. Crociani, secondo te i rom ogni quanto se le cambiano le mutande? Capisco che la scorreggia vestita o la tipica sgommata sulle mutande non sia un argomento pregnante alla sopravvivenza dello stivale e del mondo intero, ma chi non ammette almeno una volta di non aver sgommato nelle mutande sicuramente ha qualcosa da nascondere. Ciao Zanzari! Parenzo, te sgommati nei due, sotto gli occhi ce l'hai! Ciao Crociani! A me piace da matti quando mi succede che mi faccio la sgommata nelle mutande, perché poi entra il mio collega che è tutto fighettino della borghesia torinese, mi guarda schifato e io tiro fuori la mia faccia da polacco come se non fosse successo niente, ma dentro in realtà godo. Crociani, se usi le mutande nere le puoi tenere su anche 2 settimane che le strisce non si vedono. Parenzo, prima o poi ha fatto anche te una scorreggia vestita, dai mo, ti fa una bella strisciata nelle mutande, su, ammettilo. Ormai è tutto chiaro, Crociani, temendo per la sua verginità anale, parla di mutande sgommate, sperando in un effetto deterrente. Povero illuso, ormai Giuseppe, la tua ora è segnata. Caro Parenzo, devo dirti che la definizione migliore che ho sentito in questi messaggi che sono che rappresentano l'Italia vera, l'Italia che produce, l'Italia che lavora, l'Italia che suda. Rappresento la porcheria, rappresento l'Italia che suda, che lavora, l'Italia che produce, l'Italia vera, quella degli industriali, quella della Confindustria, l'Italia reale. Non l'Italia che frequenti te, dei salotti romani, dei salotti televisivi. L'Italia irreale che tu frequenti. Questa è la realtà. Alcuni sporcaccioni che si divertono a parlare di queste porcherie. Gente, ma non che si divertono, che raccontano le cose vere. Raccontano le cose come stanno. Ma gente senza dignità, schifosi, persone che non si stanno lavando. Senti che cosa mi ha raccontato un ascoltatore. Due mattine fa stavo andando in ospedale, sono un medico, Avevo il turno 8.20. In macchina ne mollo una, abbastanza significativa. Mi rendo conto che la mutanda sgommata ha assunto una sua consistenza. Poi mi sono gustato tutto il giorno quell'odoriello, ha scritto così, quell'odoriello che emanava un caldo tepore. Questo è un medico, è turno. Però è proprio vero che chi si somiglia si piglia. Cosa hai detto? Scusa, che non si capisce una mazza, scusa. No, è proprio vero che chi si assomiglia si piglia, no? E quindi tu hai questa capacità di attrarre queste personalità eclatanti, capito? E questo è il punto. Chi si assomiglia si piglia. Fatti delle domande. Ma che banalità. Francesco da Siena, sei il re della banalità. Francesco da Siena, dai. Sì, salve, buonasera. Volevo intervenire sull'affermazione della Boldrini riguardo il fatto che abbiamo visione degli immigrati. Sì, ma non con questa voce da mortorio, da obitorio, Francesco. Una voce da obitorio. Non posso berciare. E volevo spezzare una lancia. Cos'è che non puoi fare? Non puoi berciare perché? Una lancia sulla schiena di Parenzo voglio spezzare. Nel senso che mezza Italia ritiene che la Boldrini sia una malata mentale. Allora, magari qualche domanda dovrebbe forse. Io non lo so. Comunque, se metà Italia pensa che la Boldrini sia una madre, cioè tu lo pensi, cioè, tu lo pensi? No. Secondo la tua esperienza, secondo la tua esperienza, mezza Italia pensa che la Boldrini sia una malata mentale. Sì, vabbè, affermativo. Quello che volevo dire è che se noi dessimo 35 euro a una famiglia di 4 persone con 2.100 euro al mese gli italiani ricomincerebbero a fargli figli e come, per cui ma non è automatico, amico mio, non è così come tu dici. Siccome diamo 35 euro agli immigrati, se li diamo a ogni membro di una famiglia italiana, gli italiani ricominciano a respirare. Certo. Fosse così semplice, comunque Renzi in parte lo fa con gli 80 euro questo ragionamento. Appunto. Vabbè, allora basta. Giovanni da Brescia, dai. Buonasera, siamo sentiti prima. Ah, sì. No, sì, per quanto riguarda quel discorso, io sono un fervente cattolico, sono il più grande peccatore e bastardo di questo mondo. Okay? Non capisco perché anche tu, ad esempio. Cioè, tu sei un fervente cattolico, e però sei il grande peccatore. Sì, sei un grande peccatore. Certamente. Beh, le due cose sono in contraddizione, però. Ma certamente, perché cerco di fare quello che mi è stato insegnato, ma non ci riesco, quindi ne sono cosciente. Non per questo, come si può dire, sottolineo che la Chiesa, mi sembra, abbia un solo dogma. Ama il prossimo tuo, tutto lì. E mi stupisco che Parenzo, del quale non condivido molto, ma che ho un profondo rispetto per la sua religione, non si alteri con te, non ti prenda a cazzotti, quando tu ti permetti di, posso offendere, spesso e volentieri la Chiesa cattolica, non capisco. Io non offendo, io critico. Sì, critico. No, tu non devi criticare perché la signora. Io non devo criticare, io faccio quello che mi pare. No, ho sbagliato. Ok, ho sbagliato. Perché quando il prete busta, non verrà mai a casa tua che non sei un credente, perché se ne sbatte le palle, viene a casa mia, per cui è accolto a braccia aperte, e andrà il rabbino da Parenzo a braccia aperte. Io sono contento se c'è un pitbull o se c'è un feroce pitbull davanti alla porta che gli impedisce di entrare. Ma dimmi perché. Ma perché spesso fanno le benedizioni urbi e torbi a tutto il palazzo. Io non voglio essere benedetto da nessuno. Ma si manca. Ma infatti non viene da te. Ma no, viene anche. Viene assolutamente. Anche. La benedizione del palazzo, ma chi se ne frega della benedizione del palazzo? Certamente sono d'accordo con non te. Non la vogliamo la benedizione. Io non la voglio la benedizione. È un'altra cosa, però io vorrei che Parenzo si scagliasse contro di te e ti prendesse a cazzotti quando anche lui non difende la mia religione, in quanto Io ho detto buonasera, caro. Buonasera, io non ho nulla contro le religioni. Come lei sa, io rispetto molto chi ha un'altra fede. Io stesso ogni tanto vado a fare una bella benedizione dal rabbino e non reputo questo una cosa, anzi. Ok, no, ma io intendevo dire... Grandissimo rispetto. Sì, ma intendevo dire, esempio, ho avuto un'esperienza così. Sono andato a Gerusalemme, sono entrato al Muro del Pianto. Sono entrato in punta di piedi perché ero emozionato io che non professo quella religione. Quindi non capisco, Giuseppe, quando fate gli esempi, scusate, posso, vi rubo di 5 secondi perché vi ascolto da 1000 anni, per cui, quando fa gli esempi dei preti pedofili, insomma, è una cosa trita e ritrita, ragazzi. Ma trita. Raccontala a quelli, che subiscono ancora le violenze, Giuseppe, e che ancora stati denunciati da nessun vescovo, da nessun cardinale, eccetera, eccetera. Ma ti posso fare degli esempi? Ci sono carabinieri, ti posso fare degli esempi? Carabinieri che quando mettono in gabbia le prostitute, prima se le scopano, perché non dici anche questo qua? Ci sono chirurghi. Certo, assolutamente. Prima, allora che c'entra? No, Giuseppe, il concetto mio, scusami, è che... Ma cosa c'entrano i carabinieri che, come dici tu, ogni tanto può succedere qualche caso che si scopano quelle in carcere piuttosto che i preti pedofili? Che c'entra? Per farti capire che quelli che rubano, se poi scoprisci che sono dei carabinieri, che quelli che stuprano, se poi scoprisci che sono dei preti, che quelli che mangiano, che sono dappertutto, sono dappertutto. Allora, ma non c'entra niente, non è che un prete ha in cura delle persone, amico mio, è diverso. Non è il prete, è questo che non è il prete, chi è il diavolo? Chi è? Te lo dico io. Allora, lascia perdere. E chi è? Sono, ti posso fare un esempio. Chi se sono? Io fossi un pedofilo, ok? Mica ho detto che i pedofili esistono. Mica ho detto che esistono solo tre preti, i pedofili. Ho capito, ma voi enfatizzate sempre sto discorso. Ma è normale che enfatizziamo, dovrebbero essere quelli che si occupano dei bambini in un altro modo, amico mio. E allora che vuoi? No, voglio che tu, siccome continui a enfatizzare questa cosa, ma che enfatizzare cosa? Ma certo che uno enfatizza questa cosa, la Chiesa Cattolica e i pedofili, ma è normale che succeda, è normale che la gente si incazzi, è normale che la gente si arrabbi più con i preti che con gli altri. Ma quello lì, forse non mi sono spiegato, non è un prete. Non è un prete, che cos'è? E che cos'è? È un pedofilo disgraziato. Ma cosa vuol dire? Cioè, se porta la tonaca, viene coperto dagli altri, come spesso è successo. Vuoi disconoscere che sia un prete? Bravissimo. Non si comporta da prete, vabbè, ho capito, sì. Ma viene coperto dalla gerarchia in alcuni casi. No, non è coperto. Ah, non no, è coperto, in molti casi non è stato coperto. Noi cattolici li prenderemmo a calci nel culo. Tu che sei una persona onesta, ma non i vertici, non i vertici, non quelli che contano. Vabbè, Giovanni, non hai capito, arrivederci, ciao. E i vegani che bruciano la legna, come fanno a sapere che non c'è dentro il tarlo? La Zanzara. Allora, io comunque non mi dimentico delle cose, la Reggia di Caserta, gli abusivi che sono dentro, Parenzo, gli abusivi, quelli che occupano le case perché i figli dei custodi, parenti dei custodi, eccetera, eccetera. C'è una signora che si chiama Di Gioia, 86 euro per la casa che era del custode, lei credo che sia la vedova del custode o la figlia del custode. Pronto? Casa Di Gioia? Lei chi è, scusi? Sì, buonasera, chiamo da Milano, salve, buonasera. Buonasera. Buonasera, senta, volevo capire questa cosa perché ho visto dei servizi in televisione su questa storia della Reggia di Caserta, no? Ma lei che è, un giornalista o chi è? Sì, più o meno, mi chiamo Cruciani, faccio la radio, buonasera, giornalista è una parola grossa, signora. Non lo so, qua tutti i giornalisti, siamo proprio presa da tutti i giornalisti, tutti i minuti, non si può uscire che fuori casa. Che fanno, sono dei criminali, che fanno? Non lo so. Ma lei è la signora Di Gioia? Non ho capito. Lei è la signora Di Gioia? Sono io. Ah, buonasera signora, come sta? Io sto ancora lì in piedi. Ma mantengo lì in piedi perché se si cade nessuno ti alza. No, ma soprattutto signora, è incredibile, dopo tanti anni in cui siete stati praticamente dimenticati da Dio e dal mondo, tutti quanti addosso adesso, come mai? Ah, io non lo so questo, non lo so assolutamente. Scusi, mi può ripetere come si chiama? Mi chiamo Cruciani, signora, signor Cruciani. Cruciani, sì, dalla radio che è quella dei padroni del Ferriere, il padrone del vapore, che si chiama Confindustria, Radio 24. Conosce, signora? Ho sentito dire, ma non frequenta. No. Io voglio dire... Sì, a volte no, poi impegnata da tante cose. Che fa la donna, ma che fa nella vita lei? Io sono pensionata adesso. Pensionata? Chi è che abitava quella casa prima dentro la mio legge? Marito, io con mio marito sono 10 mesi, purtroppo se n'è andato a 67 anni. Per carità. L'ho perso. Ecco, ma com'è e questa... E mi ha lasciato questa bella eredità, perché io se abito qua, ci abito per... Merito di suo marito. Merito dice. Di mio marito. Certo, perché certo. Io facevo ben altro. Le case sono si un ex ispettore della polizia penitenziaria in pensione. Le case si tramandano, diciamo, no? Si possono non anche... è che si tramandano, scusi, se si tramandano, non è vero. Un po' sì, è vero, signora. E perché? Per no, quale motivo si tramandano? C'è suo marito che era titolare di questa casa, non so a che titolo, perché lei è abusiva o no, signora? Io non sono abusiva perché tengo un contratto, non solo io, ma tutti quanti, tutti indistintamente. Quanto paga? Il contratto non è stato mai rinnovato. Ho capito, perché non è stato mai rinnovato? Ah, io non lo so, scusi, io 10 mesi fa è morto mio marito, se la vedeva lui, adesso che ne so. No, ho capito, ma da quanti anni è che non viene rinnovato sto contratto? È da un sacco di... ma senta, io voglio capire una cosa. Sì, dica signora. Quando scade un contratto, sì. Il proprietario non si è fatto vivo, non si è fatto vivo, non si è fatto di rinnovare il contratto, sì. Magari aumentare il fitto se l'inquilino gli conviene rimane, altrimenti se ne va. E invece questi non si... se ne va. E invece questi non questo si... non è mai avvenuto. Non è mai avvenuto. Dunque no. Chi... adesso all'improvviso sì. Del 2014 ci arriva una lettera dicendo che sino titolo, cioè non abbiamo titoli, non avete e titolo. Però nella stessa sì. Ci parla che dobbiamo pagare, cioè ognuno secondo i metri quadri, una somma. Scusatemi, se tu mi dici che non ho titolo, perché poi mi dici che devo pagare 600 euro? Scusi signora, quanto paga lei adesso? Io già l'ho detto per televisione, lo sa benissimo. E non lo so. Che mi chiamo Marisa Di Gioia, ha letto anche le cose. Sì, ma me lo dica lei. Me lo dica, pago. No, ma me lo dica lei, non me lo ricordo più, non ho gli appunti anche davanti. Anche se pago una certa somma. Quanto non paga, l'ho signora? Io. Mi sono scordato, non dico che è colpa sua. Quanto paga? Ma non è questo il problema, non è perché. Quanto paga, paga signora? 50, 100, 200. Non ho detto che è colpa sua. Perché non abbiamo titoli e ce ne dobbiamo andare. E vabbè, prima o poi ve ne andrete, signora. Non è che uno può abitare tutta la vita nella Reggia di Caserta. Per quale motivo? E che fa? Non se ne vuole andare lei? Senta, io sono stanca. No, ma io non la voglio disturbare. La legge, no, è questo perché non è il solo che sta telefonando. Signora mia, quanto paga? Lei non mi ricordo più davvero, non mi ricordo più davvero. Senta, ma a lei che cosa interessa? Ma che era, 80, 85? In base alla somma che paghiamo dobbiamo andare via? Se dobbiamo andare via, ce ne andiamo. E quindi è una domanda inutile. Ma scusi, una domanda stupida. Scusi, ma signora, le pare normale? Non è perché paghiamo poco. 86 euro pagate, signora mia, dentro la Reggia di Caserta, 86 euro. Pronto? Che ha fatto? Ha abbassato il traffico. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. La Zanzara. Luciani, sei un grande. Parenzo, come si dice giù da noi, l'omma da puzzà, altrimenti non è nomma. Allora ragazzi, andiamo con Costantino da Salerno. La nonnetta, quella della Reggia di Caserta, non molla, non molla, non se ne vuole a na. Costantino da Salerno, ma vi pare normale che uno abiti dentro la Reggia di Caserta, paghi 86 euro? Però è strano che le chiedano no, di ma pagare la colpa non è sua, è di quelli. No, ma la colpa non è sua, è di quelli che non hanno fatto un cazzo fino adesso. No, ma quello... non solo, e adesso le dicono per sanare la tua posizione e paghi 600 euro. Ma certo, è normale, ma almeno paga. Se vuoi restare dentro la Reggia di Caserta, paghi. 600 euro, no? Uno a restare dentro la Reggia di Caserta, dai, è una follia anche solo proporre quella roba. Lì devono trovare una soluzione alternativa alla signora. Sì, una soluzione alternativa, e paghiamo sempre noi. Noi gli diamo pure la casa alla signora di Caserta. No, però trovarne una soluzione. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? L'errore l'ha commesso lo Stato. Diamo sempre tutto. Secondo te bisogna sempre trovare una soluzione per tutti. Nessuno che si deve rimboccare le maniche. Una soluzione per tutti, sempre. Con lo Stato che paga continuamente. Per te bisogna sempre trovare soluzioni. Io ti ho detto che non deve stare dentro la Reggia di Caserta, ovviamente. Costantino, dai. L'errore l'ha fatto lo Stato, mica la signora. Questo non c'è dubbio. Questo, certo, poi ne hanno approfittato, diciamo. No, Costantino, dai. Ciao Cruciani, volevo in qualità di medico rassicurarti sull'assoluta normalità delle sgommate nelle mutande. Oh, tu sei un medico che dice una cosa assolutamente normale. Dillo a Parenzo che invece... No, è una cosa assolutamente fisiologica e ti spiego anche perché molto brevemente. Tu devi sapere che la regione anale è una regione umida. Sì. Perché in quella regione ci sono tante secrezioni. Bella questa definizione, la regione anale è una regione umida, una bellissima definizione che potrei anche scolpire su un papiello e appendere davanti alla televisione a casa mia. La regione anale è una regione umida. Bellissima. Ci sono tante piccole secrezioni che si mischiano con quei residui di feci che normalmente rimangono nell'ampolla rettale. Sì, ma fa schifo, questo però, dai. No, ma questo qua, scusa, che schifo, questo qua è un tecnico della materia. Ma che tecnico? È un medico, scusa. Ma che tecnico, ma mi fa schifo di questo parlare. No, io sono, Cruciani, io sono un cultore della proctologia. Ma tu che medico sei, scusa, medico finto? Io sono medico, no. No, io sono medico generico, ma sono da sempre cultore della proctologia. Beh, cultore, che vuol dire cultore? Cioè che io promuovo l'importanza della regione anale. Ah, ho capito, promuovi l'importanza, i medici che non è che promuovono l'importanza della regione anale, che vuol dire? Allora, vuol dire questo. Vabbè, comunque eravamo alla definizione della definizione. E non c'entra assolutamente niente con il lavarsi o con il non lavarsi. Sì. Perché? E perché è fisiologica la sgommata? Spiegami. È fisiologica perché queste secrezioni si mischiano con questi residui delle feci che soprattutto rimangono nella defecazione. Forse c'è un unico modo, che sarebbe quello, dopo ogni defecazione, di infilarsi completamente il dito nell'ano. Scusa, che comporta questo? Che vantaggi comporta? Ma che comporta schifo. Che tu fai fuoriuscire questi residui e probabilmente quella pratica che Parenzo compie quotidianamente, visto che lui dice che non ha mai avuto questo problema in vita sua. Tu ci stai dicendo che per una serie di motivi la sgommata è una cosa assolutamente naturale e se non ce l'hai hai dei problemi, che è quello che penso io, o no? Assolutamente sì. Vabbè, ciao Costantino, ciao. Mauro Corone è con noi! Mauro, quanto tempo, amico mio, quanto tempo! Buonasera! Come stai? Sto, e se mi chiedi come va, ti dico va! Lo so, tu rispondi sempre così, come se dovessi morire da un momento all'altro! Per quello mi godo la vita, perché non perdo tempo, no? Io ho detto una cosa prima, raccontando la vicenda di Fedez, no? Il cantante che ha avuto un problema col vicino perché pare che rompesse i coglioni con la musica e quello gli ha dato una pizza in bocca. Ho detto, e poi lui ha addirittura fatto un messaggio ai suoi fans dicendo: volevo tranquillizzare i miei fans. Ecco, se succede qualcosa a me, caro Parenzo, caro Mauro, non so, mi mettono sotto con l'autobus, mi picchiano, se non voglio sentir fiatare una mosca. No, eseguiremo alla lettera. Non ci deve essere nessuno che osa, nessuno che osa. Anche al tuo funerale non ci sarà nessuno, ci sarà solo una mutanda, non ti preoccupare. No, ma non è quello il punto, cioè non ci deve essere nessuno preoccupato. Nessuno si deve preoccupare, tranne le persone più strette, ma per esempio i fans preoccupati. No, ma guarda, Cruciani, che la Rochefoucauld, saranno tutti contenti anche se verranno lì a dirti poverino. La Rochefoucauld diceva: nelle disgrazie dei nostri migliori amici c'è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto. Questa è bellissima, la Rochefoucauld. Ragazzi, qui passiamo dalla merda alla Rochefoucauld, ma vi rendete conto, no, della grandezza? Vi rendete conto? No, basta elogiarsi. Scusa Mauro, ma tu quante volte ti lavi, per tornare al discorso che abbiamo fatto con Nafu? Guarda, quando proprio esagero, una doccia al mese, adesso sono quasi due che non ne faccio. Ma però non disturbo, aspetta, nessuno vive da solo, aspetta, e i miei cani mi sopportano. Aspetta che siamo qui in presenza però di una notizia fondamentale. Mi stai dicendo, caro Mauro, che non ti fai una doccia da due mesi? Quasi, sono entrato nel secondo mese come una chioccia che scusa, cova ma, la sportiva. Ma non ho rapporti con nessuno, vivo da solo, quindi mi posso stare anche così. Scusami, ma ti lavi a pezzi oppure proprio non ti lavi? No, quando, quando faccio la doccia, una volta al mese, anche uno e mezzo, vado sotto, insomma. No, ma d'accordo, ma pochissimo. No, ma scusa. Ma nel frattempo, tra adesso, in questi due mesi. No, beh, no, fermi. Mi lavo a quel pezzettino lì che per la solita faccenda del non si sa mai, no? Ah, c'è il pisello. Beh, quella fascia lì la tengo. Ma guarda, io reputo che il resto e il resto non ti lavi proprio. No, no, no. Io voglio conservare il mio, come si chiama? Il pH o il PIL, non so come si chiama. Sì, vabbè, ho capito. No, io ho grande rispetto per Mauro Corona, però ritengo. No, veramente. Che... Alza la voce. Però sì. Ritengo che chi non si lava, ad esempio, ha scarso rispetto di sé. Oltre che degli altri, ma no, soprattutto del prossimo. Ma tu ti lavi, Parenzo, perché fai la fighetta, devi profumare e c'hai una moglie, una compagna che se non ti lavi ti massacra. Io no! Non ho nessuno. Io anche per me stesso. Io anche per me stesso. La ti voglio annusare. No, anche per me stesso, ad esempio, quando sono malato, ho la febbre, mi verrebbe naturale starmene a letto, non farmi neanche la barba, nulla. Invece per me stesso. La prima cosa che faccio. Io invece sono della. Perché siete brutte persone. No, ti pigli sul serio, Parenzo, per te stesso. Ti rendi conto che frase hai detto per me stesso? E gli altri dove sono? Sei tu Dio. Sì, sì. Ti vogliamo bene, Parenzo, lavati. Però, Mauro, io sono della scuola di Corona. Voglio diventare come Corona. Voglio raggiungere il secondo mese. Non ci riuscirò perché poi. No, perché tu hai donne attorno, Cruciani. Hai ragione, però dovrei fottermela anche di quello, certo. vuoi stare con me? Certo, è come l'auto di un certo tipo, che i giovani si sentono defraudati dalla loro personalità se non hanno l'Audi, che figo quello, io c'ho una Panda vecchia di 24 anni, non ho più, se vuoi montare sulla Panda, sono fuori i coglioni. Senti, ma le mutande? Quelle le cambio perché sai, una ogni certa quanto. Età è sempre un'età incerta, ci sono delle gocce che scappano, insomma, quelle me le cambio, ma ogni non quanto, mi lavo, ogni quanto? Una settimana. Una settimana. No, anche di più a volte. A volte di più, una decina di giorni a ma mutande. Ma non ho mica problemi a dirlo, non devo far danno a nessuno. No, ma i calzini? Quando li porti? Guarda, ho una fortuna immensa che non sudo. Ah, non sudi, ecco. No, guarda, è una delle poche fortune che ho avuto nella vita. Posso tenere un 20 giorni, non sudo, proprio non c'è odore. Cioè i calzini anche... se non ci credete, facciamo una volta una roba pubblica che mi annusino. No, ma scusa, quella è buona, che mi annusino è buonissima. Ma scusa un attimo, ma i calzini 20 giorni alcune volte li porti? Sono asciutti, sì, ma è possibile che non mi credete. No, ma io ti credo, ma se me lo dici ti credo, che ti devo fare? Non sudo, quindi ho i piedi quasi spaccati da secchi e... Sì, sì, ma a casa tua che hai? Una doccia ce l'hai almeno o no? Sì, c'ho una doccia in un sottotetto qui dentro che c'è una doccia. Sì, una doccia. Il bagno non ce l'hai, naturalmente manca pensarci. No, ma figuriamoci, insomma, mica Marat, non voglio morire nel bagno con la testa sott'acqua, per cortesia. E la sgommata nelle mutande te la fai ogni tanto? Ma ho sentito prima, parlavate della sgommata, cos'è? Spiegami un po'. Beh, è una striscetta marrone, insomma, la classica striscetta marrone che ogni capitato, tanto... È capitato. Solo a Parenzo non è capitato. Quando bevevo me la sono fatta anche addosso. Addirittura te la sei fatta addosso. Sì, alzi la mano chi non è successo. Ma sì, ma ragazzi, ma anch'io me la sono fatta addosso qualche volta. Poche volte, ma anch'io me la sono fatta addosso. Ma Parenzo, non capisco perché Parenzo si erge quasi a persona perfetta da questo. Te la sarei fatta addosso qualche volta pure te, Davide? Ma no, ma non ne pace, ma non è un argomento che voglio rendere pubblico. Ecco, questo poi uno può fare le peggiori cose. Ma che c'entra cose, l'argomento pubblico? Non c'entra niente l'argomento secondo pubblico. Secondo me non è un argomento di cui parlare, ma te l'ho detto altre volte, cioè, pubblicamente. Ma che cosa? Poi, questa vicenda della, come si può dire, della, no, ma la sgommata hai detto che non ti è mai successo, quello è no, francamente quello no, esatto, non ti è successo, tu ci credi poi, Mauro? Ma io tendo a registrare quello che uno dice senza mettere in dubbio cosa vuoi che anche ma tu lo fai anche fa... scusami Mauro, tu lo fai anche per una questione di risparmio, la questione della non te ne frega niente l'acqua risparmiata? No, vorrei farlo, anzi pare che vogliano privatizzare l'acqua. Qui, dai microfoni di Radio 24, mi sa che dovrò chiedere scusa a Berlusconi, e se avesse fatto quello che sta facendo Renzi, e con le banche, e con l'acqua, e con la Costituzione, l'avrebbero tagliato a fette, quindi dai microfoni di Radio 24 mi sento e chiedo scusa a Berlusconi, ma l'acqua però la stanno privatizzando e vorrei fare il ponte a Messina, ma... Non lo so, il piccolo Duce, che ne so io. Addirittura un piccolo Duce. Ma insomma, comincia a parlare anche con l'enfasi ducesco. Calma, l'acqua è pubblica. Vabbè, ma quello e le mani, si tagliano le mani e chi tocca l'acqua. Non ho capito, lo fai anche per una questione etica, la questione delle docce, o non te ne frega niente? No, no, no, no, mi batterò per l'acqua pubblica. Però lo fai perché semplicemente perché... Però lo fa, se sono pigro l'acqua, io ho avuto un fratello anche morto annegato, io con l'acqua, qui col Vajont, sono stati 2000 morti a Lungaroneta. Con l'acqua, con l'acqua. Noi abbiamo un brutto rapporto con l'acqua, ecco. Ciao caro, ciao, ciao. Ciao, ciao. Francia, ma alla fine Cruciani è stato incappettato? Non lo so, ancora non si sa. La Zanzara. Niente, la mia amorosa mi ha detto che lei e Cruciani prima gli dà una rassettata, magari gli fa fare il bagno, però alla fine so farebbe. Vabbè, amico mio, che ci posso fare io? L'hai mandato tu sto messaggio, non è che l'ho mandato io, eh? Cioè, l'hai mandato tu. Enrico Lucci alle prese con i candidati a Roma. Spettacolare, sentite. Due cose che servono e che tu farai: smettere di abbandonare le periferie. Due, ma... ripristinare finalmente sicurezza e legalità. Si può fare, tu lo sai. Ma cazzo, ma nessuno aveva mai detto sta cosa. Lo so, ma... Questo è con Marchini, giustamente dice: nessuno aveva mai detto ste cose. Tutte banalità dette dai candidati in campagna elettorale. La prima cosa è appunto un reddito di dignità per... Reddito di dignità, non ha detto mai nessuno. È un grande, questa non l'ha detta mai nessuno. Bertolaso, sentite Bertolaso. A Mussolini ha usato delle parole delicate come una scureggia nel megafono. Come rispondi? Talmente coglione da volerci provare. Storace. Se diventi sindaco, mi sposi col fidanzato mio Giuseppe. Certo, ti faccio pure il regalo di nozze. Ti posso dare un bacetto sulla bocca? Da un bacetto. Un bacetto sulla guancia, ciao. Sull'orecchia. Genio assoluto. Allora, adesso ti faccio sentire una frase che ti farà incazzare. Oggi ho volutamente evitato l'argomento vegani, ci sarebbe da raccontare, guarda, delle cose, rimandiamo tutto a domani, rimandiamo tutto. Però una frase te la voglio far ascoltare. Tullio Solenghi, signor Tullio Solenghi, ospite della trasmissione che noi prendiamo sempre di mira, in realtà facciamo tutta pubblicità a questa trasmissione, la trasmissione della signora Celentano e della signor Baira, e il quale Tullio Solenghi ha detto che secondo lui ci sono animali di serie A e di serie B, ma ha fatto un paragone abbastanza bizzarro. Senti. Se pensi che ci sono nazioni intere che si bloccano per una balena spiaggiata e dietro l'angolo facciamo strage di tonni, allora mi viene da pensare che ci sono animali di serie A e di serie, certo, B, e allora mi vengono in mente tempi bui in cui nell'umanità c'erano gli ariani che erano di serie A e gli ebrei di serie B. Ah sì, dicevano. Ma come, tu fai il paragone tra ariani ed ebrei? Ariani ed ebrei? Paragonati al tonno e alla balena? Ariani ed ebrei, tonno e balena, e uno dice: beh sì, hai ragione, beh, ma hai ragione un cazzo, hai ragione, un cazzo hai ragione. Quelli sono animali, non c'entra niente gli ariani e gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. È una follia, dai, paragone. Non ho capito l'ultima frase perché non si è sentito, ti sarei distaccato dal telefonino, è la radio questa qua, non è un colloquio privato, eh? C'ho il solito telefonino e ho detto semplicemente, ecco, che è un paragone agghiacciante. Bene, così si sente bene. Perché non stai sempre così? Marco da Foggia, dai. Marco. Marco. Pronto, mi sentite? Sì, vai, dimmi. Ciao, buonasera. Io volevo intervenire ricollegandomi al discorso dei preti, insomma, della Chiesa. Vai, vai. Niente, insomma, io parlo da cattolico, sì, cattolico credente non praticante. Sì. Ad ogni modo, sono convinto che ognuno di noi debba essere libero di scegliere la propria religione. Sì, però non ci dire cose banali come, no, prima, come banale, prima i politici, amico mio. Ciascuno deve essere libero di scegliere la religione, lo sappiamo già prima che tu lo riferisca alla radio. Mi sembra scontato, no? Se mi dai il momento dopo ti dico, no, anche il momento dopo te lo do, però vai avanti, vai. Allora, quello che volevo dire è che da cattolico dico io che non mi sembra giusto che nelle scuole, nei comuni, nelle, insomma, nelle istituzioni in generale si debba tenere il crocifisso. Per me è una mi cosa sembra un sbagliata. Non problema, francamente il crocifisso mi sembra un non problema, te lo dico, io lo toglierei anche, ma non mi sembra un non problema, no, francamente. Ma questo non fa impressione a nessuno, non condiziona nessuno il crocifisso, dai. No, questo è collegandoci alla libertà di scelta, io non devo... Vabbè, ma adesso perché mi devi mettere in campo la questione del crocifisso? Che c'entra? Chi ne ha parlato? Qual è il punto? Io mi volevo collegare al discorso dei preti. Fondamentalmente anche io, come dicevi tu, io non voglio che devono venire nel mio condominio e dare la benedizione al condominio. Non è mai successo nel mio condominio che è venuto un buddista o un musulmano a dare la benedizione al condominio, quindi vorrei che ci fosse semplicemente questa parità da questo punto di vista. Cioè, secondo va bene me Marco, loro... ho capito, ciao. Allora, per la serie Nuove professioni, caro Parenzo, professioni in ascesa in tempi anche di crisi o comunque in tempi un po' grami, c'è una professione che ho scoperto che sta diventando abbastanza importante, dunque anche per l'imprenditoria italiana. Si potrebbe addirittura fare un albo professionale, per carità, io sono contro gli albi professionali, però qualcuno magari ci pensa, ed è quella del gigolò, caro Parenzo, del gigolò. È una professione molto antica, tra l'altro, è una professione molto antica, che viene spesso bistrattata, relegata, però c'è gente che ci campa, c'è gente che... No, che guadagna del denaro. No, per carità, va benissimo. E bisogna rispettare. Ne abbiamo uno collegato, un ragazzo che credo che abbia 41 anni, della zona di Trieste, Raul, non so esattamente la pronuncia, che saluto e abbraccio, buona serata. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Raul, ciao, quanti ciao. Anni hai? 41. 41 anni, come lavori? Con vabbè. Internet, con... Sì, con internet ho un mio sito personale dove ricevo i contatti, mail, telefonate, le varie richieste. Senti, ma quanto lavori? Ma di cosa si occupava lei prima di fare il gigolò, diciamo? Ma prima avevo un'impresa di costruzioni, poi le cose non sono andate bene, quindi questa è buona, questa è buona. Dalla impresa di costruzioni fino all'impresa del sesso, impresa degli incontri, diciamo. Sì, perché non c'è, tu fai sesso sempre durante questi incontri? Ma nel 90% dei casi sì. 90%. In che cosa sei specializzato? Cioè, le scegli le persone innanzitutto oppure chi chiama? No, beh, sicuramente quando chiamano mi faccio sempre mandare una foto tramite... Ah, dunque non le scegli brutte, non le scegli brutte. Anche no. Cioè, devono avere una loro decenza. Ma sì, un minimo, dai. Un minimo. Dimmi un discrimine, dai, dimmi una cosa che proprio non hai fatto. Cioè, ti hanno mandato una cosa e proprio hai detto no, questo no. No, boh, sicuramente quando sento al telefono se c'è qualche dono, qualche ragazzo così un po' invadente, un po' strafotente. No, ma dal punto di vista fisico, qual è la cosa che proprio hai visto qualche volta una foto e hai detto no, questa qua non ce la faccio? Beh, sicuramente una donna in grave sovrappeso. In sovrappeso, no, ma poi che ti hanno fatto le persone in sovrappeso? Cioè... No, proprio io non mi sentivo di incontrare una donna sui 150 kg. Vabbè, ho capito, amico mio, 150 kg è veramente un caso limite, cioè, sei di bocca buona allora. Cioè... Vabbè, ma loro comunque solitamente le donne anche mi chiamano, sono tutte di media presenza, dai. Di media presenza, ma ti chiamano coppie, donne singole oppure che ne so? Vabbè. Mi chiamano entrambi, poi se quando mi chiama la coppia vuole solitamente fare regalo al marito, al fidanzato e viceversa, e se no mi chiamano sia... Ma vai pure con gli uomini? Assolutamente no, sono etero al 1000% proprio, no comunque ci sono anche dei gay che ci provano costantemente, poi chiudo la telefonata, li blocco sul telefono... Addirittura blocchi il telefono, che ti hanno fatto? Sì. Ah, perché poi insistono? Perché insistono, non so, dopo qualche mese, ah, ciao come stai? Io ho detto guarda... Già ti dico che non faccio incontri. Senti, ma non ho capito, ma tu riesci a campare facendo lo gigolò o no? Sì. Cioè, quanto guadagni al mese? Beh, avrò dai 2, 3, 4 incontri, dipende poi dal mese. E a incontro quant'è? E guarda, un esempio, cena dopo cena sono 500 più le spese trasporto, viaggio, dove devo andare o raggiungere la persona. Bellissimo, 500 più spese trasporto, come lo dici, esatto. In modo professionale, 500 più spese. Ma che offri tu di particolare perché uno debba pagare 500 euro più spese di trasporto? Cioè, offri, guarda, le misure sono importanti, immagino. Sicuramente contano, nessuno si è mai lamentata, anzi al contrario, cioè siamo oltre i 15, immagino. Sì, però la donna, oltre a fare, diciamo, la professuale ha bisogno di passare anche una serata divertente andando al ristorante, rimanendo a casa sua. Ah, cioè, la maggior parte delle volte è il ristorante più serata fuori, eccetera. Esatto, esatto. Cioè più poi trombata, diciamo. Esatto, esatto. Rare volte l'appuntamento, quindi dice, bon, guarda, ci vediamo per le 8 in quell'albergo, arriva 10 minuti di chiacchierata. Difficile, dice, difficile. Sì, sì. C'è tutta la serata, eccetera, eccetera. Esatto, esatto. Ma Parenzo, ma è un mondo pazzesco, Parenzo. Un mondo incredibile. Effettivamente è giusto che lui abbia anche questo tariffario che comprende come la pizza express, no? La pizza che ti portano a domicilio. Beh, no, quella no, quella che c'è. Quella pizza express mica costa così. No, . Nella pizza... È una pizza pregiata questa qua. Sì, no, ma voglio dire, non volevo dire... L'hot dog a domicilio, chiamiamolo così. Ma quello tu cosa paghi? Paghi il trasporto, paghi il cartone, paghi avvicina la bocca, avvicina la bocca al telefono, non al telefono di Raul, ma insomma al tuo telefono. Senti Raul, voglio chiedere una cosa, ma tu che tipo di servizi particolari offri? Cioè c'è un servizio particolare? Ma guarda, solitamente le donne mi chiamano per passare, come ti dicevo prima. Ma anche ragazzine, che non hanno mai fatto nulla. Le clienti dai 20 ai 50 offro anche il servizio di perdita della verginità. La perdita della verginità? Eh sì, perché qualcuno magari arriva anche più in là, sui 30 anni ancora vergine. Ma non ci posso credere, si sono rivolti a te delle persone vergini? Sì, esatto. Ma quante volte è successo? Ma una decina. Cioè, Parenzo, ma questa è impressionante questa cosa qua. Cioè, il servizio perdita di verginità e pagano lo stesso, 500 euro. Beh, certo, perché si affidano ad un professionista, perché magari vogliono arrivare all'appuntamento con il ragazzo, qui vogliono magari avere una storia e non vogliono fare la figura di quella degli imbranati. A me sembra tutta una grande porcheria, però per carità va benissimo. Ma perché è una grande porcheria? È la vita reale. Che tutto ciò che c'è nella vita reale, però, no, ma è una cosa bizzarra questa qua. Tu dici tutto dicendo la vita reale, uno si pulisce male il sedere, ma la vita reale è una porcheria. No, ma è una porcheria? No, se, Raul, anche se accade nella vita reale, si può dire che è una mezza porcheria? Ma no, ma se ce lo sta dicendo in maniera estremamente professionale, Raul. Sta dicendo che delle persone. Critico Raul, mi fa un po' Raul, scusa, delle persone si sono rivolte a te perché per essere praticamente sverginate. Questa esatto, è la sostanza. Esatto. Una roba incredibile. Senti, tu al mese quanto guadagni? Beh, un paio di 1.000 euro sicuro. E che ci fai con 2.000 euro? Ho altri progetti comunque nella mia vita, non faccio solo l'accompagnatore. Per adesso 2.000 euro al mese, sì, puliti. Ciao, a presto, ciao ragazzi, a domani. Radio 24, la passione si sente.